Farfalletta, aspetta, aspetta, non volar con tanta fretta, far del mal non ti voglio, ferma appaga il desir mio, vo baciarti il cibo darti, da per egli preservarti. Di cristallo stanza avrai, e tranquilla un'ora sarai. L'ali aurate screziate, so che aprite ingemmate, chi sei vaga, vispa e snella, fra tue uguali la più bella. Ma credo fanciullo che amo e adoro. E a te pare vispo snello, fra i suoi uguali egli è il più bello. Vo capirti ed soffrirti, più che rose gigli mirti, ti fia caro il mio fanciullo, e da lui sarai trastullo. Nello specchio terzo letto, rose gigli mirti,